5H. Ascolta e rispondi. Secondo te, Marcello, ha avuto una bella idea? No, non ha avuto una bella idea. Secondo te, Paolo, ha saputo la verità? No, non ha saputo la verità. Secondo te, il nonno ha voluto riposare? No, non ha voluto riposare. Secondo te, Maria ha conosciuto molte studentesse? No, non ha conosciuto molte studentesse. Secondo te, Isabella e Marta hanno ricevuto il regalo? No, non hanno ricevuto il regalo. Secondo te, Sergio e Manuela hanno venduto la casa? No, non hanno venduto la casa. Secondo te, Pam e Peter hanno dovuto aspettare molto? No, non hanno dovuto aspettare molto.